Aqui a tribo seria distribuída e escolhida com sucesso e para o modo ao primo militar gênito e nevogênito e se tradiveram e cuidam barco bruto e ruente de que se caíssem de L'ingresso di Folegari nel team di Mnemosine fu visto da tutti con ostilità e sospetto. Che diritto aveva questa Hermes di inserirsi nel progetto quando ormai ogni suo contributo sarebbe stato inutile, giacché eravamo così vicini alla meta? Qual era il suo reale interesse nella cosa? Ma soprattutto ci inquietava la condotta di Corvero. Ci fidavamo ciecamente di lui e sapevamo quanto fosse geloso del progetto e quanto tenesse alla sua segretezza. Perciò solo gravi motivi potevano averlo indotto ad accettare una simile intrusione, ma quali erano questi motivi? E ancora, perché aveva ritenuto di non metterci a parte delle cause e dei dettagli dell'operazione? Perché tutto questo mistero? Fra noi ne parlammo più volte, senza però pervenire ad alcuna conclusione sensata. Peraltro Folegari si rivelò un tipo enigmatico e impenetrabile, costantemente sulle sue ma anche competente e in fondo per nulla sgradevole. In ogni caso, la sua ostinata riservatezza impedì sempre di instaurare un rapporto che andasse al di là di una formale e cortese collaborazione professionale. Collaborazione. Più che altro faceva mille domande, a cui avevamo ricevuto il mandato di rispondere, sulle nostre ricerche. E per il resto osservava e seguiva in silenzio tutte le nostre mosse. Certo, assecondammo le istruzioni di Corvero e non permettemmo che la nostra contrarietà interferisse con il lavoro di squadra. Però Folegari rimase in qualche modo un intruso, un estraneo. Fino ai fatti di Bollate, è chiaro. Nel settembre del 2007, anche se ormai esisteva, il paleofono poteva registrare esclusivamente onde inestinte recenti e quindi forti. La vera sfida iniziava solo adesso. Bisognava ancora calibrare con precisione la regressione temporale e dotare lo strumento di un adeguato apparato di amplificazione, cosicché potesse riprodurre onde sonore antiche. Per fare tutto questo si rendeva necessario un altro testimonio, ma un testimonio un po' speciale questa volta. Oltre ai soliti requisiti, infatti, il reperto ideale doveva presentarne uno ulteriore e piuttosto restrittivo, che riduceva drasticamente la casistica. Doveva aver memorizzato le onde sonore di un evento di cui fossero note con precisione le coordinate spazio-temporali. In altre parole, serviva un pezzo che fosse stato presente nel luogo e nell'ora in cui si era verificato un evento storico celebre e dalle sonorità inconfondibili. La registrazione di quelle onde sarebbe stata una prova definitiva e inconfutabile del funzionamento del paleofono. Quando fu interpellato, la richiesta mi colse alla sprovvista. Eppure, proprio in quei giorni stavo leggendo un'approfondita biografia di Gaio Giulio Cesare, così mi tornarono alla mente le circostanze della sua morte. Qui in realtà la storia si confonde un po' con la leggenda, ma pur sapendolo, in quel momento fui preso dalla curiosità e dal fortissimo desiderio di tentare. Ai miei occhi, quella di Cesare è sempre stata una delle figure storiche in assoluto più affascinanti, e il fulmineo pensiero di poterne ascoltare le ultime parole provocò in me da un lato uno strano timore e dall'altro un'eccitazione fanciullesca. Così, pur dichiarando onestamente il rischio di rincorrere un mito, senza pensarci troppo, evocai rapidamente la congiura e soprattutto ciò che rendeva l'episodio interessante ai nostri fini. Contro ogni mia aspettativa l'idea piacque e la cosa fu decisa. Ma in seguito, anche se odio la superstizione, più volte mi pentì di aver fatto battezzare il paleofono sotto il segno di un evento tanto infausto. Un uomo saggio avrebbe scelto una nascita, io scelsi una morte. Quello di Cesare è uno dei più famosi omicidi della storia. Alle idi di marzo, ossia il 15 del mese del 44 a.C., il dittatore uscì di casa all'ora quinta, circa le 11 del mattino, per recarsi a una seduta del Senato presso la curia di Pompeo. «Sed Cesare futura cedes evidentibus prodigis, denunziata est», scrive Svetonio nel De Vita Cesarum. L'imminente morte di Cesare era stata preannunciata da evidenti prodigi. La tavoletta di Capua, l'inedia e il pianto delle mandrie di cavalli sul Rubicone, i presagi dell'indovino Spurinna, l'uccellino che portava un ramoscello dall'oro alla curia e che fu dilaniato da uno stormo, i sogni di Cesare stesso e della concubina Calpurnia. Ma quella mattina il dittatore si accontentò di conquistare la benevolenza degli dei offrendo sacrifici, quindi entrò in senato. Allora i congiurati si avventarono contro di lui e Cesare cadde trafitto da 23 pugnalate. Di cui però solo la seconda, inflittagli in pieno petto, fu decisiva e mortale, come dichiarò poi il medico Antistio. Oggi della curia pompeiana Sita nell'attuale area sacra di Largo di Torre Argentina, non resta che un'estremità, oltretutto in rovina. Eppure alcuni storiografi antichi, e in particolare Plutarco nelle sue Vite parallele, riferiscono un altro particolare. Non si sa se per caso o per deliberata e crudele volontà degli assassini, dopo essersi trascinato qua e là sotto i colpi, infine Cesare si accasciò prostem basin e fesso Pompeiu bebe Kenandrias, ossia presso il piedistallo su cui si ergeva la statua di Pompeo Magno, suo storico nemico. Quella statua beve il sangue e registrò le ultime parole del Pontifex Maximus Gaio Giulio Cesare. Si trattava di pura fantasia o quel particolare era storicamente fondato? C'era un solo modo per scoprirlo. Quaquent, quaquent, quaquent.